sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, benvenuti in frequenza. Oggi è martedì 11 ottobre del 2011. Buona serata a tutti, io sono Flavio Bilato e dall'altra parte del vetro Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, li stiamo abituando proprio bene i nostri ascoltatori. Ogni martedì sera c'è un certo live, un certo nel senso che ormai li abbiamo abituati che ogni martedì dalle 9 alle 10 e mezza della sera c'è qualcuno qui con noi che viene a suonare, che viene a proporre la sua musica qui in diretta per la presentazione del suo disco, ma anche per far sentire che di musica ne sa qualcosa. E in questa serata, Maurizio, ti lascio l'onore di presentare il personaggio che è venuto a trovarci questa sera. Maurizio. Sono molto onorato stasera, Mimmo, di presentarti. Abbiamo per i nostri ascoltatori e per tutti chi ci sente, sì, Mimmo Cavallo, che è un musicista, un autore che ha fatto la storia della musica italiana. Mimmo, grazie a tutti, per me è un grande ritorno. Dico ritorno perché io, quando sono andato via dal sud, dalla mia Taranto, sono nato in un paesino vicino Taranto, in Puglia. Quando sono arrivato a Torino da buon emigrante, ho subito fatto amicizia con dei ragazzi veneti. Bene. Perché erano, a quel tempo, sì, i nostri fratelli discriminati come noi. Perché io prima, quando stavo al sud, la discriminazione non la conoscevo. A un certo punto, anzi, quando stavamo giù, ogni tanto arrivava qualche settentrionale, cioè, qualche ragazzo del nord. E devo dire che eravamo un po' cattivelli noi del sud, perché lo pigliavamo subito a soggetto, diciamo. Sì. E quando sono partito ho detto, ma vado in questa terra nuova così. Mi aspettavo tutti dei... gente insomma un po' tontolona, diciamo. Quando sono arrivato su ho visto che... Che l'uomo, quello sì, preso che... a soggetto ero io. Perfetto. Ho detto, accidenti, ma qua è cambiato il mondo. E mi sono sentito in buona compagnia con i veneti. Che erano anche loro a soggetto. Erano anche loro a soggetto. Eravamo discriminati, noi e i veneti, i meridionali e i veneti. Per cui li ho sempre sentiti come fratelli. Poi i veneti un giorno si sono arricchiti. Ecco, sì. Qualcuno ci ha abbandonato. Però noi lavoriamo per, poi si parla, per incontrarci. Certo. E poi si parla di storia del nord-est. Sì, però poi, sì. Comunque, non è questa la storia. Dobbiamo cercare di dialogare con nostro fratello Caino. Così assolutamente sì. Certo. E perlomeno, visto che hai parlato già di Caino, ricordiamo che siamo con Mimmo Cavallo per la presentazione del suo ultimo lavoro, che si intitola Quando saremo fratelli uniti. E proprio mi legavo al titolo di questo disco, che poi è anche una canzone all'interno, per dire che tu almeno due volte all'interno del disco hai citato il fratello Caino. Eh sì, perché di questo si tratta. Diciamo che da piccoli ci insegnano che ci dicono di un nord industriale e di un sud agricolo, il che non sarebbe neanche un dramma, ma la questione è antropologica, cioè ce lo dicono che siamo nati così. E purtroppo questo, purtroppo, stante a quello che si è studiato, che io ho letto e che ormai sono documenti che da circa 10-15 anni stanno riemergendo per merito di persone capaci, che topi di biblioteca che vanno vanno a cercarli, insomma. Sto pensando per esempio a Antonio Ciano, un mio amico di Gaeta, che gira per gli archivi e tira fuori. Pino Aprile stesso si è documentato su queste, cioè ci sono delle verità che stanno ritornando stanno venendo fuori finalmente. Questa storia del sud agricolo e il nord industriale è esattamente una grande frescaccia, nel senso che era esattamente l'opposto. Sì. Cioè il sud era industriale e il nord era agricolo. Nei censimenti che sono stati fatti non c'era l'Istat a quel tempo. Nel 1871, cioè 10 anni dopo l'invasione, diciamo, dei nostri fratelli, sì, e nei censimenti che hanno fatto in quegli anni si parla, e è venuto fuori questo dato. E allora qualcuno ha detto, ma i meridionali mentono. cioè non gli stava bene, e poi tiravano fuori la... Comunque mi sembra una storia abbastanza attuale, anche quella del mentire, ma questo mente, ma questo... Sì, cioè... non dico la verità, com'è possibile che questi sono più industriali di noi? Però, cioè, voglio dire, la Calabria, il Parolo, non c'è nulla di più cacofonico, cioè di che fa contrasto, diciamo... tra la siderurgia e la Calabria, cioè sono come il latte col salame, cioè non c'entrano proprio niente. Certo. Però in Calabria c'erano due industrie grandissime, siderurgiche, di armi, costruivano i ponti in ferro a Mongiana, come molti ormai sanno, Pietrarsani in Campania, eccetera. C'era una realtà tessile fortissima, le città avevano l'illuminazione a gas, c'era le pensioni, c'erano addirittura le case dei vitalizi per i musicisti, cioè c'erano delle cose che erano vicine, diciamo, a un socialismo oppure a un regno paternalista che voleva veramente, la chiamavano l'isola felice. Al nord, viene dall'Inghilterra, invece c'è uno sviluppo industriale economico che attraverso cambia, diciamo, l'individuo in titolare di interesse, scoppia questo boom dell'economia, del denaro che figlia stando nelle varie banche, circolando, eccetera, e scoppia questo liberismo che oggi vediamo che sta languendo. Cioè oggi quel liberismo fratello del capitalismo di un certo modo, quello che bada che ha bisogno sempre per vivere di un popolo colonizzato innanzitutto, e soprattutto ha bisogno di crescere. Voi sentiamo sempre parlare di crescita, e io è un po' che mi chiedo, ma perché bisogna continuare a crescere? La disponibilità della terra è finisce. Certo. Perché dobbiamo continuare a comprare macchine? Cioè, e poi quando non c'è più un mercato che di mai, su, ce ne andiamo in America e vendiamo ai cinesi, vendiamo lì, basta, l'importante è un'industria deve crescere. Io credo che l'idea invece filosofica, greca, insomma, mediterranea anche, di un'altra visione, io ho un po' letto Franco Cassano che fa un'ode alla lentezza, appunto alla grecità, al fermarsi, a non andare incontro all'individuo filosofico, eccetera. Ecco, questa, perché il Sud, io penso, davvero ha tante cose da imparare, ma c'è anche una cosa da insegnare, che è proprio questo pensiero della lentezza, lo chiama. Il pensiero assoluto è quello: fermati ed ascolta. È vero, è questo soprattutto. La sintesi è questa. Allora, noi ci fermiamo un attimo, Mimmo, per iniziare ad ascoltare qualcosa del tuo nuovo lavoro, che appunto ricordiamo i nostri ascoltatori, si intitola Quando saremo fratelli uniti. Sì, avrei dovuto chiamarlo forse Terroni, che è più too cool. Mio figlio me lo dice sempre, mi parla sempre, dice: ma tu dovevi chiamarlo Terroni. Quando saremo fratelli uniti, è come Massimo Emiliano con Ugo, nel famoso del film, cioè Ugo arriva subito, no? Diceva il povero, non mi ricordo l'attore napoletano, ve lo ricordate? Troisi. Ecco. Sì, Massimo Troisi. Lo dicevate voi, perché ecco qua. Allora ci ascoltiamo l'inizio di quello che è il tuo nuovo lavoro, appunto con questa traccia che si intitola Quando saremo fratelli uniti, che è l'ascoltiamo. Sì, è una speranza assoluta. E vogliamo ascoltarlo da disco, poi torniamo a commentarlo insieme. Sì, benissimo. Sì. Allora ci ascoltiamo questo Quando saremo fratelli uniti, ma non partiamo subito con quel pezzo, ma con quella che viene chiamata l'ouverture, ovvero si parte con uno scoppio, che è una bella sintesi di quello che è successo nel 1861. Sì, ma ancora più in là il Big Bang. Appunto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. È stato come il meteorite per i dinosauri. Thank you. tolsero gli artigli al gatto e volevano che graffiasse la voce all'usignolo e volevano che cantasse l'argilla alla terra e volevano che fiorisse. Più lacrime non abbiamo e vogliono che ridiamo. Italia madre matrigna, ritrova la memoria, facciamo pure in modo che sia tutta una famiglia. Però per stare insieme, per stare in pace e in gloria, occorrerebbe forse riscrivere la storia. Quando saremo fratelli uniti, fra nord e sud, fra bianchi e neri, ragioneremo in termini di aiuti. Quando saremo fratelli, quando saremo fratelli uniti, fra nord e sud, fratelli veri, senza diritto di alzare la voce, e parleremo d'amore e pace. Ci conosciamo un giorno senza dire parole, guardandoci dal mirino del nostro fucile. La montagna era acerba, se ne andò via la gente, anche Dio ci abbandonò, la terra non dava niente. Tolsero i denti al lupo affinché non azzannasse le ali all'aquila, perché più non volasse. Ci rubarono la ricchezza, divenimmo miserabili, l'orgoglio e il ricordo, e ci sentimmo noi i colpevoli. Quando saremo fratelli uniti, fra nord e sud, cattivi e buoni, giusti e sbagliati, soldati e banditi. Quando saremo fratelli da fiore a fiore, da mano a mano, da cuore a cuore, da uomo a uomo, saremo tutti un paese uno, tutti un paese solo. Quando saremo fratelli uniti, saremo liberi, saremo uguali, ragioneremo in termini di aiuti per un domani migliore. Quando saremo fratelli uniti, fra nord e sud, fratelli, senza diritto di alzare la voce, e parleremo di pace da fiore a fiore, da mano a mano, da cuore a cuore, da uomo a uomo. Saremo tutti un paese uno, saremo tutti un paese solo, quando saremo fratelli. Quando saremo fratelli. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio, Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, ci siamo sentiti l'ouverture e anche il primo pezzo, Quando saremo fratelli uniti. Mimmo Cavallo in studio con noi ancora, buonasera Mimmo e benvenuto. Ciao, ciao, sono contentissimo di essere benvenuto e di essere anche venuto. Dicevo una cosa a Francesco, Francesco sì. È il figlio di Mimmo che è qui vicino. Tutti chiedono sul sito, vero Francesco? Chi ha fatto questi arrangiamenti? Ma li ha fatti tutti Mimmo questi arrangiamenti? Sì, li abbiamo fatti, sono come le orecchiette, io so fare le orecchiette, fatte in casa col grano, eccetera. E questi arrangiamenti sono fatti proprio in casa. Le orecchiette con le cime di rapa. Sì, con le cime di rapa, con la casericotta, cioè con varie... Certo. So fare solo quello. Va bene, dai, prendiamo... Non mi guardate così perché prendiamo questo appunto, Mimmo, ok. Quindi allora, sì, dicevo, si è partiti con un'ouverture che era... Come si ricordava in principio di trasmissione, sì, c'era un Big Bang, no? Questo... È una metafora per far capire che quello che è successo nel 1861 somiglia molto a... perché il sud cambiò dal giorno alla notte con questo scempio. Ci sono state, pare, ormai acclarate 1 milione di morti, dei quali non parla nessuno, non c'è una lapide dove poterli piangere, non c'è un ricordo. E c'era a Gaeta, devo dire, una piramidella, una piccola piramide che ricordava questo, i giorni della tragedia di Gaeta. Sì. E l'hanno tolta per farci una scuola, per scavando hanno trovato 2000 cadaveri che avevano, si sono riconosciuti che erano cadaveri di soldati borbonici perché avevano i bottoni d'argento. Ricordiamo per chi non conosce la storia di Gaeta, in pochi libri di storia viene messa questa cittadina che è proprio sul golfo, dalla parte del Tirreno, sì, e è stato, diciamo, uno degli L'ultimo ultimi baluardo del Regno delle Due Sicilie, dove si era rifugiato Francesco II, aiutami, sì, no? L'ultimo re, sì. si era allontanato da Napoli perché lui avrebbe dovuto difendere Napoli, insomma. Sì, fino all'ultimo, però poi ha scelto di andare a Gaeta perché per non far danno a Napoli, no? Per in questo caso. Per non far danno a Napoli, e tra l'altro a Napoli ha lasciato tutte le sue ricchezze, cioè è andato via da Napoli senza strascico, diciamo. Certo. Cosa che altri regnanti di non altro uguale lignaggio, secondo me, quando sono andati via dall'Italia, perché poi è toccato anche a loro, certo, sì? Certo, sì, certo. Di chi spada ferisce, sono andati via con 18 treni. Si sono portati via tutto, sì, certo, roba, certo, familiare. Insomma, lui invece di uscito, è andato prima a Gaeta e poi in esilio volontario, sì, è venuto a prenderlo un battello francese, sì, e sì, poi sì, di lì si sono perse le tracce, perlomeno quelle ufficiali. Diciamo che è stata un'aggressione, ormai la cosa è conclamata, cioè è stata un'aggressione voluta dalle massonerie, per quello il discorso di prima che dicevo io, la politica eccetera, cioè a comandare non sono certo i politici, ormai la politica ha una funzione di gendarme quasi oggi, cioè chi a comandare sono le banche, era la banca, erano le banche inglesi, erano i massoni, banche inglesi, francesi, e continua ad essere la Banca Centrale Europea, è lei che ormai detta legge, e i governi, tra l'altro questi indignados, sì, come li indignados, vogliono chiamare, sì, che ci stanno dicendo esattamente queste cose le diceva Nicola Zitara, per esempio, nel suo L'invenzione del Mezzogiorno, le ha dette Nicola Zitara nel suo bellissimo libro, è venuto a mancare proprio poco tempo fa, e per cui questa crisi di un certo modo di vedere la persona, questa crisi del liberismo, dei soldi, sta in crisi profonda. Speriamo che si costruisca un'alternativa, perché criticare, io mi rendo conto anche che i ragazzi che criticano poi dice e allora che facciamo? Lì è là il vero risvolto della critica, è che qualcuno perché, abbia un'idea in più, poi perché appena si apre la gara non è che quelli, i cattivi, stanno lì a guardare, e quelli si infilano, certo, si certo, infilano nella diciamo. Vabbè, è la storia di tutti i giorni, Mimmo, d'altronde. Vabbè, allora stiamo presentando il tuo nuovo CD, che è anche uno spettacolo teatrale. Sì, uno spettacolo teatrale che si intitola Terroni. Abbiamo già ricordato prima il nome di Pino Aprile e abbiamo ricordato anche Roberto D'Alessandro. Sì, diciamo il regista attore col quale io faccio Terroni. Terroni è anche il titolo di questo libro di Pino Aprile. Tra l'altro l'incontro con Pino è stato... Io ho letto il libro perché ho visto questo libro, anzi mi è stato regalato addirittura, quando ecco, è uscito, vedi. Qualcuno ha pensato bene di regalarmi Terroni, avendo fatto Siamo Meridionali, dice toh, come mai? Evoluzione della specie, mi ha dato Terroni, io ho preso, sì, Terroni, l'ho letto e poi ho chiamato Pino Aprile perché mi sono subito messo in contatto con lui per fargli complimenti, e questo Pino mi ha detto: Mimmo Carlo, ma io sono un tuo fan, tu sei un mito per me, hai scritto, e sei stato uno dei primi a scrivere, perché io ho scritto tanti anni fa, era il 1981, Un mamma, che sì, di questo parlava, se vai a vedere anzi, sì, anche se vai a sentire proprio, parlava proprio di questo, l'invasione di un popolo vicino che, ahimè, per liberarti ti invade, insomma, sì, ti fa diventare, ti colonizza. E, per cui lui e ci siamo subito incontrati e è nata l'idea di fare questo spettacolo lui conosceva Roberto D'Alessandro, che è l'attore regista, abbiamo avuto questa idea di portare questo spettacolo. Avete steso il soggetto, tutto, sì, quanto. Sì, io ho scritto le canzoni e volendo scegliere tra scrivere, perché quando si parla di briganti, sì, di risorgimento, vengono sempre le cose con chitarre battenti, tamburelli. Eugenio Bennato in questo insegna. Detto, guarda, no? Facciamo una, sì, cosa, invece di fare una cosa così molto popolare, molto già sfruttata con trick e track, cioè facciamo un disco per i ragazzi. Un'opera rock. Arriviamo al, diciamo le stesse cose però con un linguaggio diverso. Moderno. Cioè. Per chi avrà la fortuna di ascoltare tutto il disco vedrà che ci sono molte tracce rock, molte tracce potenti, d'impatto, che poi faranno venire anche all'ascoltatore una grande e forte curiosità, come è venuta a noi, come è venuta a me. Io sono Flavio, Maurizio dall'altra parte del vetro, e quindi una, e per omaggiare allora una vera e propria, una vera e propria ricerca dopo, sì, questo, sì, sì, sì, io disco. Tra l'altro per me è stato facilissimo, cioè, sì, quando è stato davvero un invito a nozze, perché molte aree, molte melodie le avevo ma non le producevo, diciamo, non le realizzavo perché magari il mercato non tirava, non cioè, c'era da dire, fare quella dell'inno di gloria, è tanto tempo che mi girava, certo, nella testa di fare, perché Paisiello di Taranto ha scritto l'inno del regno delle due Sicilie, e io per modestia ho detto lo voglio scrivere pure io. Ah, bene, una, certo, cosa un, giusto, po' più moderna. Allora, cioè, ascolta, adesso Mimmo, partiamo dal 1980, quando tu avevi cominciato ad essere famoso, diciamo, no? Sì. Perché prima, immagino che, beh, prima io ho iniziato, la mia prima cosa è addirittura proprio, ecco, 1980, cioè, non so se vi ricordate. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato già da un sole paziente. Ma tu che torni alle tre, poi torni a casa da me, tu che non dici più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce entra dalle serrande, cerco qualcosa da fare, da inventare mutande. Un'automobile passa, una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio, darsi un rubacuori. Ma io come Giuda so vendermi nuda, la strada conosco, a tirarti nel bosco, a tirarti nel bosco, a tirarti. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. Era Caffè Nero Bollente, cantata, sì, dalla Mannoia, Mannoia. È stata la prima cosa che ho fatto, quindi, per poi passare a al tuo qualche, diciamo, sì, a farti conoscere come nome. Adesso cosa ci fai ascoltare? Allora partiamo dal 1980, sì, quando 1980, c'era il siamo meridionali, no? Con tutti quei pezzi bellissimi, tra i quali c'era anche Ninetta, che, sì, di cui mi ricordavo prima, e poi soprattutto un pezzo che amiamo tutti, anche noi del nord, questa Siamo Meridionali. Ah, sì, beh, sì. Siamo meridionali, abbiamo stati tutti quanti abituati male. Sospettate di noi, sospettate, fate pure, fate come vi pare. Siamo meridionali, dovete costruire le centrali nucleari. Stiamo qua noi, approfittate di noi, che fate, non ne approfittate. Gomez, marocchine, che vuoi? Teniamo l'Africa vicina e strappiamo creature tutte nere ricciulate, ci fumano naturalmente affumicato. Ah, siamo meridionale e teniamo tutto quanto la terza elementare, approfittate di noi che siamo una massa merda, siamo abituati alla verde. Siamo nati in un paese tradizionale, cardinale e vescovo, mezzi bianchi e mezzi neri, e quelli che non sono preti sono carabinieri. Sentite come parla mamma. Abbiamo nato in un paese meridionale, se ci date aiuto ci basta un mese, paramo tutto quanto piemontese. Ne, in un meridionale stiamo dappertutto, se ci date una mano ci pigliamo tutti. Siamo neri brutti, nudili neri, e rompiamo palle peggio delle predie. In un meridionale sozzi come ragni, continuiamo pomodori di devasche bagni. La fatica non ammazza chi la odia, chi l'apprezza, a un meridionale ci puzza, perché siamo meridionale, teniamo una resistenza eccezionale, digiuniamo tutto il mese e chi se ne importa, campiamo due canzoni con la buona sorte. Ghetto, hey, ghetto, no no no no, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato anche questa Siamo Meridionali, quasi a sentirla Mimmo che dopo 31 anni ci sarebbe stato il tuo disco Quando Saremo Fratelli Uniti, sempre questo saremo, siamo. Sì, c'è un verbo essere che forse concretizza, rafforza e concretizza. Sì. Prima siamo meridionali e poi un saremo fratelli uniti. Eh sì, siamo meridionali perché eravamo così, eravamo quello che eravamo. E quando saremo, perché si è preso coscienza di un qualcosa e si spera, appunto, era un grido di speranza, un chiedere all'etere, che una volta si chiamava cielo, certo. Adesso lo chiamano etere, sì. Come lì, prima era individuo, adesso no, ci sono tutti questi termini nuovi, globale, tutti impersonali, si dice così, giusto. E per cui sta a significare proprio una speranza, insomma, un desiderio di qualcosa di concreto, perché ritengo che in quel benedetto 1861 non ci sia stata un'unione ma una frattura. A proposito di Siamo Meridionali, il blues ce l'hai anche nel sangue, non solo il rock, il blues ce l'hai nel sangue, questo era un pezzo assolutamente blues, un rock blues. Sì, e poi magari daremo altre dimostrazioni di blues, perché c'è un pezzo a cui tengo tantissimo io, mm-hmm. che si chiama Giù le mani, che poi faremo che rappresenta proprio il qualcosa. Io credo di aver fatto un album che si chiama Stancami Stancami, sì. Musica, il terzo album, certo, che forse è meno diciamo roboante rispetto al primo, è meno espansivo effettivamente, però c'ha dei pezzi che sono giusto. E Giù le mani è uno dei il più vissuto, possiamo dire questo. Sì, io in concerto faccio di quell'album faccio quasi tutti i brani, mentre non so, del primo ne faccio tre, del secondo ne faccio tre, due, di quell'album lo faccio tutto. L'altra cosa è stato quando hai cambiato anche la casa discografica, prima eri con la CGD, poi no, sei passato alla Fonicentra. Ero cambiato anche io, nel terzo album ero cambiato pure io, e se brevemente posso raccontarvi un aneddoto, certo. In quel periodo Renzo Arbore mi invitò a una gita su una nave, e saremmo andati in Marocco così, e naturalmente in quella escursione si ideò e si fece il cast di Quelli della Notte, Io però non lo sapevo, se no sarei andato. Certo. Io invece, uno dei grandi errori della mia vita, non ci andai. Non ci andai perché pensavo che Renzo mi avrebbe chiesto, siamo Merinali, Ninetta, e io stavo uscendo da quel... Mi ero un po'... metropolizzato. Sì, avevi cercato una via diversa. Sì, cioè, perché Stanca di Musica era, era un pezzo molto metropolitano, per cui io stavo... ero attratto da questi giovani, da queste forme nuove di espressione, il rock, eccetera. Mi ero un po' allontanato, mi sentivo a disagio. E ho sbagliato. Poi un altro errore è stato quando il povero Ravera mi disse: guarda, noi andiamo a Sanremo, tu fai Siamo Meridionale, 50 persone, alziamo le braccia al cielo, Siamo Meridionale. E siccome Sanremo non era molto... ci piaceva tanto Sanremo ai cantautori, ai miei produttori chi ti produceva all'epoca? Coggio? Sì, sempre Coggio. Sempre Coggio. Noi faremo Mr. Fantasy, Varai, tutti i programmi culturali che però avevano... Io non conoscevo il signor audience o il Mr. Shelley, non sapevo che esistessero queste persone, per cui quando l'ho saputo avevamo 6.000 che guardavano la TV, cioè c'erano 600.000 persone che guardavano, invece Sanremo 20 milioni. Certo. Quando arrivavamo nei paesi che facevamo i concerti, la vecchietta mi veniva vicino e diceva: giovani, chi è lo cantante? Cioè, ero io il cantante. Bene. Tra altre cose, anche in Stancami Musica del 1982 c'è qualcosa che riguarda sempre un'area di risorgimento, sì, ecco, sempre legato alla storia. Quindi, sì, Mimmo. Perché sì, anche lì cito Nino Bixio, Garibaldi, cioè, perché io avevo letto questa cosa e però è un po' come il presepe, no? Se vuoi, cioè, io ho sempre faccio sempre il presepe a casa da tanti anni, però non sono più così credente, no? Anzi, diciamo che sto alla finestra, guardo, spero, cioè anche lì spero che... Però diciamo in realtà non sono così, sono molto, diciamo, sono per la religiosità, ma non ho una religione. Per cui, però continuo a fare il presepe. Per cui quando ho scoperto che Garibaldi non era tutto questo pezzo di pane, che Cavour era un... mi è dispiaciuto perché io li avevo messi in questo pantheon della patria, i nostri padri. Però è difficile staccarsi, anche se tu sai che ti hanno fatto male. È un po' come la nostra terra, no? Che più ci malmena, più ci maltratta, più le vogliamo bene perché è la nostra terra. Certo. Per cui io li sentivo miei, me li hanno fatti, e questo è uno dei danni che io imputo alla scuola del nord, al fatto di scegliere sempre testi del nord per le scuole del sud, che sono un po' inadeguati, perché da noi per esempio la vendemmia è a fine agosto, primi settembre, e io leggevo sul libro che a ottobre c'è la vendemmia, quando da noi a ottobre cominciano le olive, per esempio. Certo. Cioè, c'erano delle inadeguatezze, insomma. Anche da questo punto di vista ti sei documentato poi alla fine. Anche da questo punto di vista. Allora, stiamo presentando con Mimmo Cavallo in diretta qui dagli studi di Blu Radio Veneto il suo ultimo lavoro, che si intitola Quando saremo fratelli uniti. Vediamo di prendere un altro estratto da questo album, presentando quello che è un pezzo che si intitola Fora i Savoia. È un invito carino a questo grande re, a questo lignaggio poco edificante, devo dire, di re, che insomma ne ha fatte veramente delle belle. Ci sono delle belle cose su questi personaggi. Allora sentiamo questo rock davvero. Fora Savoia era l'invito che i partigiani del sud, insomma, che poi alla fine chiamavano anche briganti, certuni. Li hanno chiamati briganti. Sì. Alcuni lo erano davvero briganti e sono passati a combattere anche loro. Però diciamo che nella maggior parte dei casi erano soldati borbonici. Allora lo ascoltiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E vorrei riscrivere la storia da quando il nemico l'ha interrotta. si può solamente riannodarla lì nel punto dove fu spezzata. Quel che han fatto è così spaventoso che si tace sui libri della storia. Sono scesi e ci hanno massacrato, ci hanno derubato la memoria. E fu solo guerra di conquista, divenimmo così una colonia. Tutto il nome dell'Italia, dell'Italia unita. Ma fora e Savoia, fora Liboia, fora Caino, fratello d'Italia. Quanto lo scempio, quanti ne ammazzati, gli dissero briganti, invece erano soldati. A maledetto sia Lucy Santa, a maledetta sia sta simenta, lì Savoia e Dio Calicampa, e da allora capinno e violenza. Come ieni cani arraggiati, marcarono col piscio il conquistato. Bronte, Tre Castagni, Casalduni, e quanti paesi a ferro e fuoco. E della terra nostra i nostri mari, divenimmo sudditi e coloni, noi coloni e loro, loro proprietari. Ma fora e Savoia, fora Liboia, fora Caino, fratello d'Italia. Sangue tingeva di rosso i cigli, di quale crimine noi siamo figli. E da un giorno all'altro nelle due Sicilie chiusero le fabbriche e la zecca. Piombo a chi non volle ubbidire, in piazza a testa giù a chi protesta. Non c'erano pelle rossa in quei giorni lì, e Ponte Landolfo non era su San Cri. Ponte Landolfo non era su San Cri. Maledetto Lu 60, maledetto Lu 60, maledetta sta simenta, maledetta sta simenta. Lì Savoia di Ugali campa, lì Savoia di Ugali campa. E da allora capendo in violenza, e da allora capendo in violenza, ogni oppositore fucilato ha preso a testa giù per l'esempio. Quanto quello che ci hanno rubato, e quante le medaglie per lo scempio. Ogni oppositore fucilato ha preso a testa giù per l'esempio. Savoia, fora Liboia, fora Caino, fratello d'Italia. E sangue tingeva di rosso i cigli, di quale crimine noi siamo figli. E fora Savoia, fora Liboia, fora Caino, fratello d'Italia. Quanto lo scempio, quanti ne ammazzati, li dissero briganti e invece erano soldati. Li dissero briganti e invece erano soldati. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, questa canzone si intitola Fora i Savoia, era un grido, un invito, l'abbiamo ascoltato da questo CD che si intitola Quando saremo fratelli uniti, ce lo sta presentando Mimmo Cavallo in diretta qui dagli studi di Blu Radio Veneto. Tra le altre cose, Mimmo, tu metti anche dei piccoli appunti riguardo alle tue canzoni in questo libricino che fa parte, che è il corredo essenziale per ascoltare meglio questo disco. E qui citi una frase di Cavour che dice ad Azeglio: se noi facessimo per noi stessi ciò che stiamo facendo per l'Italia, saremmo dei grandi bricconi e meriteremmo di andare in galera. Eh sì, perché Cavour sapeva benissimo quello che stava facendo. Tra l'altro invitava a non far prigionieri, tanto c'è un'altra frase dove lui appunto invita a non far prigionieri giù, tanto ai meridionali quando li apri il cuore ci hanno sempre il re dentro, per cui non conveniva fare prigionieri. E devo dire che la figura di Cavour andrebbe un attimo rivista, perché all'inizio, quando era ragazzetto, stava facendo, non dico fallire, ma stava mandando quasi alla rovina il padre con le sue operazioni, perché qui si è inventata questa carta moneta che, viaggiando, il pezzettino di carta che rappresentava i soldi, viaggiando in un'altra banca, si praticamente c'erano i soldi in una banca, il pezzettino di carta che li rappresentava, l'assegno, sì, in un'altra, sì, sì, certo. E i soldi si raddoppiavano. È stata questa l'invenzione poi della la famosa velocità di circolazione del denaro, e del denaro virtuale già in quel momento. Il denaro virtuale che triplicava, si quadruplicava, creando altri interessi, per cui c'era la speranza, i soldi, cioè, però la realtà è che si arricchiscono pochi e molti li perdevano poi questi soldi, perché quando questa bolla poi si sgonfiava, a rimetterci era il popolo. E il popolo un giorno è andato sotto casa di Cavour perché gli voleva fare la pelle. Questo i libri non lo scrivono. Cioè, i torinesi andarono sotto casa di Cavour perché volevano farlo fuori, e dovette intervenire i gendarmi, insomma, per acquietare la gente, forzatamente allontanarla. Per cui tutte queste operazioni fallimentari di Cavour, e secondo me ne segnano il profilo anche economico, non per il grande statista, ma la stessa cosa in grande ha fatto poi all'Italia, perché il fallimento, il Piemonte era bello che fallito, e glielo ha salvato Napoleone III invadendo la Lombardia e certo, dandogli la Lombardia, e dunque nuove persone che pagavano, insomma, le tasse eccetera. Altrimenti, quando avrebbe Napoleone III l'ha fatto non gratis, cioè l'ha fatto anche perché altrimenti avrebbe perso i suoi prestiti, ma anche Nizza, Savoia, e poi volevano dargli anche la Sardegna, perché a Vittorio Emanuele la Sardegna non è mai piaciuta. E poi era un po' scomoda per arrivarci. Molto effettivamente. Scomoda. Non ci voleva stare proprio. Le altre cose, tu nomini anche il fiume Sand Creek nelle tue argomentazioni. Non c'è nessun fiume. Da noi non c'è. In America c'è stata questa poetica citazione. Da noi non c'è niente, non c'è nulla, non c'è un ricordo, non c'è una grotta, una pietra. Io sono stato a Padre Pio a Pietra di Montalcina, per esempio, sì. E lì anche questa è la pietra dove veniva a sedersi padre, un chiancone, una pietra in mezzo a un bosco. Questa è invece la pietra che gettava per colpire, cioè, è un ricordo, si ricorda tutto. Invece di questa storia non c'è niente, non c'è un albero, non c'è un niente, per cui è l'associazione, insomma, ai morti del Sand Creek era una citazione comunque. Allora, ricordiamo che sei assieme a Roberto D'Alessandro protagonista di questo spettacolo teatrale che si intitola Terroni, dal libro di Pino Aprile, dove c'è il Roberto D'Alessandro che recita, diciamo che è uno spettacolo di teatro canzone, cioè lui parla, racconta il libro e io canto le canzoni, tutto cercando di parlare in maniera simpatica, in maniera poetica, cioè della nostra storia, perché la storia è un po' come come la mortadella, insomma. Certo. Nessuno sa come la fanno, certo. Nessuno sa come è fatta. Ingurgitiamo questi bocconi carichi di colesterolo storico, sì. Però magari ci creano un grande danno, però non lo sappiamo, per cui c'è questa ricerca, insomma. È l'unica ricetta, cerchiamo che non di... fa bene sapere la mortadella, comunque. Altre cose, sì. Ma noi vorremmo saperla invece, cerchiamo di mettere la lanterna davanti ai piedi del re, insomma. E come hai associato a questa storia forte le musiche, come le hai inventate, come le hai studiate? Ma il mestiere logicamente ci vuole, però diciamo molto lo avevo già per esempio Gloria Gloria, che è l'inno alle due Sicilie, era una cosa che avevi già dentro. Che avevo già dentro e magari poteva diventare, chissà, io ho ancora, adesso non fa più il calciatore, un fratello calciatore, magari avesse, che ha giocato nel Pisa tanti anni, anche nell'Udinese, nel Taranto, magari avessi conosciuto un presidente, diceva fammi un inno, Gloria Gloria sarebbe diventato un inno della squadra, un inno, cioè le musiche si depositano dentro, noi le becchiamo, insomma, dall'etere e stanno dentro, poi dopo quando c'è l'occasione, per cui questa occasione, quel pezzo là, poi leggendo Garibaldi uno si scrive i testi, delle idee, delle cose, poi sì. Sono i testi stessi magari a suggerirti le dinamiche melodiche. Che poi ricordiamo che Gloria Gloria la sta portando avanti anche Albano nel suo disco, che si titola Amanda è libera, sì. Mi sembra di ricordare giusto, Amanda, sì, all'interno di questo CD c'è proprio una tua canzone. E forse farà, vi dico questa cosa in anteprima, forse farà sicuramente, e noi lo aspettiamo a Milano anche per questo, non credo che la canterà, Te Deum Gaeta. Te Deum Gaeta, sì, Tedeum... che magari ascoltiamo più tardi, perché abbiamo nominato, sì, Gaeta, l'abbiamo cercato di far capire un po' di più riguardo la figura di questa cittadina, magari più tardi l'ascoltiamo. Ma visto che ti sei portato la chitarra, Mimmo, Cosa possiamo ascoltare ancora da te? Io avrei quasi un'idea, quel giù le mani che avevi detto prima. Sì, che appartiene appunto a quel terzo album, Stancami stanca di musica, e che, perché ogni volta che si parla del sud lo si visita sempre attraverso i luoghi comuni più beceri, che sono le donne in nero, i bambini nudi, le strade polverose col moccolo verde, i piedi scalzi, le donne dietro le persiane, cioè basta, quadretto completo, amico. Sì, il sud fa notizia solo quando è olografia, quando è terremoto, dramma, Avetrana e tutte queste cose qua. Basta, perché il sud è anche una realtà urbana, e lo vedete anche nella mia normalità, che non fa notizia, però è così, insomma. Allora giù le mani dal nostro sud, dalle nostre donne, dai nostri danni, dai nostri vecchi, dalle nostre fatiche. Un figlio sporco e al naso che gli cola, a piedi scalzi in un deserto, la strada che è una tagliola, e ad a te, e ad a te, e ad a te, e ad a te, e ad a te, la vecchiaccia sull'uscio naturalmente nero, e si respira mosca scioscio, zitto che la gente poi ci crede davvero, e ad a te, e ad a te, e ad a te, e ad a te. Un figlio sporco, parliamone, facciamolo vedere. Sta zitto e non ha fatto niente, si fa bebbe, non si sente. Il sud alla TV è sempre malinconico. Bambini poverini fanno la pupù in un ambiente poco igienico. E ad a te, e ad a te, e ad a te, e ad a te, e ad a te. Giù le mani, e ti ho perdo quello che dite. Giù le mani, dai nostri vecchi, le nostre fatiche. Giù le mani, date per tutti fino a domani. Allora, giù le mani, giù le mani, giù le mani, giù le mani. Sud è un figlio sporco, non ha testa e non ha piedi, come numero un 69, lo giri, lo vedi, quanto è grande questa città, ora tocca al cielo, una vita, la vita di vetro, ma davvero pensi che voglio unirti dietro? Oggi l'aria come trema, quasi quasi non si respira, hai paura anche tu, un giorno di più. Giù le mani, io perdoni quello che dite. Giù le mani, ai nostri vecchi, le nostre fatiche. Giù le mani, e tale per tutti fino a domani. Allora giù le mani, giù le mani, giù le mani, giù le mani. Sporco sempre sotto lo stesso cielo, non dà fastidio, non va lontano, io ho bisogno sempre di una mano, di una mano. Ma come lo racconti tu, il sonno mi somiglia e a volte non ne posso più. Con rabbia resta sveglia perché su da un'altra cosa. Ma che storia è questa, il cane si morde ancora la coda, non sa che su te feste. Allora giù le mani, giù le mani, giù le mani, giù le mani. Le mani, giù le mani, giù le mani, giù le mani, giù le mani, giù le mani, le mani, giù le, giù le, giù le mani, giù le mani, giù le mani, giù le, giù le. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato un grande pezzo dal vivo, questo è Giù le mani da Stancami Stancami, musica del 1982, e come avrete capito, carissimi ascoltatori, Mimmo Cavallo non si è ancora stancato della musica, nonostante la musica lo stia cercando. No, era un'invocazione quella, stancami, stancami, mannaggia te, stanca. Sì, ti colpisce ai fianchi, ti colpisce diretto, fa di tutto, ganci a destra e a sinistra, no, e non riesce a stancarti. Io tra l'altro quando... sono evaporato, diciamo, dal mercato. Si è allontanato, poco allontanato, dai. E devo dire che non ho sofferto, perché si continua lo stesso a scrivere, a fare. C'ho in testa di scrivere anche un libro anch'io, perché ormai tutti quanti... Chi è che non scrive un libro? Tutti, lo scrivono tutti. Solo io. Scrivono voglio, tutti. Per non sentirmi solo, voglio... continuo a leggere, a informarmi, poi dopo se capita che, come è capitato con Terroni, con Pino Aprile, l'incontro casuale, che magari può nascere un fatto comunicativo, ben venga, perché in fondo ci dobbiamo connettere con qualcuno. Se però non succede, io sono un po' cincinnato, ve lo dico, io faccio un buon primitivo, c'ho un po' di terra, mi diverto così, insomma. Cioè, bene. Tu sei anche autore, quindi anche se non canti, poi, ecco, ogni in prima tanto persona. Scrivo esatto. Adesso Zucchero. Come è il discorso con Zucchero? Dai, racconta. Zucchero, gli ho mandato dei brani, perché a una cena ci siamo incontrati con la sua, col suo ufficio stampa, che è Marina Testori, una dolcissima persona che sta a Milano. Ha detto: ah, ma tu sei Marina, l'ufficio stampa di Zucchero? Sì, sì. Dice, ma mi piacerebbe mandargli delle cose, perché io sono un po', puzzo anch'io di blues, di insomma qualcosa. Ha detto: guarda, no, Zucchero non fa niente, non fa canzoni degli altri, però tu, questa è la mail, mandagli e, mandagli e vedi un po'. Io gli ho mandato dei brani e lui il giorno dopo mi ha chiamato perché gli era piaciuto Vedo Nero. Esatto. Però sai, Mimo, dobbiamo cambiare un po', cioè vediamoci, perché vieni a trovarmi. Sono andato a trovarlo a Pontremoli e siamo stati insieme un po' di tempo e è uscito fuori. Sei riuscito ad imitare anche molto bene Adelmo in questo momento. Vabbè, Mimo, abbiamo un ascoltatore che vuole salutarti, che è stato anche un po' il nostro gancio per poterti contattare, per poterti avere qui in questa serata. E quindi diamo il benvenuto anche a Gino, l'ascoltatore. Buonasera, Gino. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi, buonasera a quel brigante che avete lì, al fratello brigante, e buonasera ai dati ascoltatori. Ciao fratello brigante, anche a te. Sei, ciao, come va? Anche, tutto bene, Gino, tutto bene. Credo che avranno capito un po' tutti che sei un vulcano. Dico, stride un po' il fatto che ci stiamo sentendo qui in casa, ma tra l'altro io sono un po' a casa mia in Veneto, perché io c'ho una zia, la zia più dolce che io ho avuto è veneta, e ogni tanto veniva a trovarla a Padova, che aveva un bar, non mi ricordo dove, ero piccolo quando mi ci portavano, per cui io mi sento un po' a casa mia, anche per le ragioni che ho detto all'inizio, che quando sono andato a Torino erano tutti veneti, gli amici. Perciò non, però è strano comunque, no, che ci sentiamo, ci siamo però visti sempre. Loro sono fratelli della musica, quindi questo ci unisce, è trasversale, vero. In effetti, guarda, dicevamo proprio l'altro giorno con in studio, dove c'è tu. Quando sei in un ambiente lavorativo, come può essere uno studio di registrazione, non esiste l'altro, cioè esistono tutte le persone che si collaborano, si suona uno, esatto, uno nero, verde, bianco, cioè non esiste la diversità, davvero è una cosa bellissima. E no, ma principalmente anche... poi nella musica è così, cioè in effetti siamo tutti uguali, alla fine nella musica, perlomeno speriamo in quella. Vabbè, io ti volevo ringraziare innanzitutto, a parte di Candida e tutti, come sai, che ci stanno un seguito eccezionale qua, per il citamento nell'album, visto che ci hai messi lì. Ah sì, e beh, non potevo fare diversamente. Candida, lo sai che nel mio cuore, nel mio fegato, un po' dappertutto, insomma, è stato un incontro casuale bellissimo, per cui poi mi hanno fatto, insomma, cittadino onorario, per cui non il paese di è un paese dell'Irpinia, sì, chiaramente. Sì, un paese dell'Irpinia, sì, sì. Dove abbiamo registrato Siamo Meridionale e Ninetta nell'80 esatto, sì. Ancora, vabbè, ancora ci sono dei ricordi molto sì, molto forti ancora, vero? Ma, Gino? Sì, certamente. Ma anche perché noi abbiamo nel sangue Mimmo da qua, Gino, da parti. Ma anche perché la radio questa sera avrà tanti del sud che stanno ascoltando, sicuramente da queste parti parecchi. Gino, anche perché, ma si sente perché giù certo, con streaming audio, come no, si sente. No, ma anche perché, cioè, il filmato, volevo dire agli amici, il filmato che abbiamo fatto noi, dove ci il filmato Siamo Meridionali, puoi dirlo meglio tu, Gino, ritrae anche un convento che poi è stato distrutto. Esattamente. Per cui un po' è stato il terremoto, un po' è stata la situazione, ecco, la politica, non è solo nord e sud, è anche sud-sud, insomma, la politica sbagliata. Certo. È stato buttato a terra per situazioni, e alla fine ci siamo trovati con quel video a rappresentare quel monastero che non c'è più. Sì, perché tutte le pietre, le chianche, chi se le è prese quello? Chi se le ha messe? Ci ha fatto una raccolta. Cioè, questo convento si è sparso nelle ville del... vuoi lasciare le pietre in giro, Mimmo? Bisogna raccoglierle. Infatti, sono in giro, però in giro da quel sillo, sì. Scusa, non ho sentito, Gino, cosa dicevi? No, dicevo, c'è stato un ruba di pietre. Sì, certo. Una volta si faceva di soldi, adesso si fa di pietra. Guarda che anch'io sono un ladro, mi sembra una parola un po' grossa, prendo ricordi nelle masserie, ogni tanto io vado, viso le masserie al sud, e mo mi prendo una pietra, mo mi prendo una cosa così, e cioè, vabbè, ma sono masserie abbandonate. Cioè, però ecco, un conto è prendersi un conto è prendersi una pietra che sta lì, insomma, un conto è portarsi via un portale. Speriamo cioè, vivamente non ci siano le belle arti in ascolto. Vabbè, io vi voglio salutare, non vi voglio rubare tanto tempo. Grazie, Gino, sei stato ancora. Grazie a voi, grazie alla radio che si mette a fare queste belle cose per la musica, questo è importante. E grazie a te che ci hai dato questa dritta davvero meravigliosa, Gino. Gino, presto... Ci mancherebbe. Gino, presto verrò, lo sai, no? Che devo venire a pranzo da Angela perché mi hanno invitato. Ecco, vedi. Ma noi ci stiamo organizzando per il 5, questo sì. Lo possiamo dire, non so se possiamo dirlo. Sì, un attimo solo, sì. La radio per scopi privati, avanti, vai. No, il 5 ci sarà Mimmo al San Nazzaro con Terroni, con lo spettacolo. Ah, bene, sì. A Napoli. Noi ci stiamo organizzando per trovarci in quella serata tutti insieme. Invece il 26 a Milano non ce la fate, no? Sì. È un po' dura il 26 a Milano. Mandiamo gli amici della radio, amici veneti. Ricordiamo allora il 26 di ottobre alle ore 21 al Teatro Martinit di via Riccardo Pitteri a Milano c'è Terroni, appunto, con Roberto D'Alessandro e Mimmo Cavallo. Sì. Bene, allora grazie, Gino. Un abbraccio, abbraccio a tutti, anche a Francesco che sta lì in silenzio. Sì. Ah sì, sta qui in silenzio, ma sta facendo un'operazione davvero doc, perché se tutto ci va bene riusciremo ad inserire anche dei filmatini, Gino, che ti faremo vedere di questa serata. Bellissimo. Benissimo. Vi ringrazio, un abbraccio ancora a tutti. Grazie, grazie, grazie a te. Ciao fratello Brigante. Ciao, ciao Gino. Allora ricordiamo i nostri ascoltatori che siamo con Mimmo Cavallo, stiamo presentando quello che è il suo nuovo lavoro, che si intitola Quando saremo fratelli uniti, e ci ascoltiamo un altro pezzo di questo disco per poi commentarlo insieme. Avrei scelto quello che parla di quell'autostrada che nessuno conosce, ecco, dove Salerno-Reggio, dove si sono persi un sacco di soldi, nessuno sa il perché, ma insomma intanto l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarla qui dagli studi di Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Mulo pedonale, cerchi la storia, capisci perché. La Salerno-Reggio ti può illuminare, ti dice quanto qualcuno tiene a te. Senza pedaggio, dunque senza pretese, certo un vantaggio, sì certo, però, però ha diviso in due il paese, uno efficiente e l'altro, beh invece no. Due corsie di almeno metri sette, sai le autostrade a misure precise, al sud le faremo un poco più strette, lo Stato deve contenere le spese. Caino Abele, Abele Caino, Remolo e Romolo, Romolo e Remo, uno la vittima, l'altro assassino, che lanciò la pietra e nascose la mano. Più meno a me, più assai a te, ma la pistola fumante dov'è? Più assai a te, più meno a me, lo sanno tutti e tutti sanno chi è. Ehi! La costruirono per unire i popoli, però per correrla niente era peggio. Povero Cristo, anche lui fermo a Eboli, lì sotto al sole della Salerno-Reggio. La gravità segna la differenza, stacca di pesce da questa lenza. Ma la pistola fumante dov'è? Lo sanno tutti e tutti sanno com'è. Ehi, e sei del sud e sei meno, non hai un lavoro e sei meno, non hai le strade e sei meno, e non la paghi e sei meno, non hai ospedali e sei meno, le ferrovie e sei meno. Oh frate, mia frate, e la chiamarono la mulo pedonale, ma quanto traffico di gente, c'era persino la pista laterale per carri agricoli e asini, oimè. Ogni corsia solo 2,50 metri, con materiali che costano poco. La gallina fa l'uovo e il gallo canta, così va il mondo e così si fa il gioco. Noi sei del sud e sei meno, non hai un lavoro e sei meno, non hai le strade e sei meno, e non la paghi e sei meno, non hai ospedali e sei meno, né ferrovie e sei meno, o frati mia frate. E sei del sud e sei meno, lavori in nero e sei meno, sei di colore e sei meno, tutti una razza sei meno, carne che puzza e sei meno, o mamma mia sei meno, o frate mia chi sta meglio di te. Più meno a me, più assai a te, ma la pistola fumante dov'è? E a noi è no, e allora sì, e gioca al gioco che gioca è così. Più assai a te, più meno a me, lo sanno tutti e tutti sanno chi è. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato un altro pezzo tratto dal nuovo disco di Mimmo Cavallo, Quando saremo fratelli uniti, con questo brano dedicato all'autostrada Salerno-Reggio, chiamata anche la mulo pedonale. E chi ha seguito bene il testo capisce anche il perché di mulo pedonale. Tu la descrivi anche molto bene, tra atto di protesta e anche atto di geometria applicata, certo, se la vogliamo, certo, dire. E diciamo che quando si fanno le cose al sud, le si fanno, è che sì, proprio non le si fanno, ma le si fanno sempre un po' meno. Mm. C'è, sì, un bel capitolo sul libro di Pino Aprile proprio su questo, sul tema della minorità. Mm. Per esempio, un'autostrada deve avere le corsie 3,5 metri a corsia, no? Eh no, al sud non si può. No, si può, si potrebbe, però perché farla così, sciampagnare tutto questo bene? Facciamola 2,5 metri. Mm. Poi la corsia d'emergenza, ma sì, vabbè, corsia d'emergenza, chi vuole che debba andare giù? Facciamo una cosa strettina, giusto per i muli, perché questi contadini sono contadini. I carretti più di 2,50 metri non sono larghi. Per e via. Cui facciamo una mulo pedonale. E la chiamarono proprio, poi, cioè, sappiamo che Berlusconi ultimamente ha detto che finalmente sarà finita, cioè, sono 150 anni che questa strada ancora non la finiscono. Chi ha avuto la pazienza di sentire tutto quello che ha detto Berlusconi in questo periodo, insomma, può aver sentito anche questo assolutamente. Anche questa bella, e comunque favola. C'è una bella strofa dove tu dici sempre la parola meno, quindi la fidi: se sei del sud sei a meno, se lavori in nero sei meno, se sei di colore meno. Se qualsiasi cosa tu sia, sei sempre meno, in ogni caso sei sempre meno, perché sei... è un verbo, non è un numero, non è un voto, volevo dire. Cioè, qualsiasi cosa tu faccia, sarai sempre di meno. Noi, per esempio, giù al sud non abbiamo una banca, anche la banca che c'è di Napoli, cioè, i proprietari sono del nord. E cioè, questa la dice sempre lunga sul fatto del... Oppure l'altra volta io a una radio un po' verde ho detto che i FAS, che sono gli stanziamenti, quelli per le regioni sottosviluppate, eccetera, che sono stati dati al sud, in realtà sono andati alle regioni del nord. Sono stato aggredito quando ho detto questo. Immagino. Oh, perché quei soldi sono stati dati a 140 milioni a Catania, a Roma. È vero. Ma gli ha dato il vostro governo. Sì, ma allora... Berlusconi che ha dato quei 140 milioni, e oggi è uscita proprio sul giornale di oggi, su quotidiani, c'era scritta questa, sono andati stanno in galera, non so, il sindaco di Catania e compagnia bella. Diceva proprio questo, perché è stato il governo con la firma del verde, che del suo, insomma, compare, a dare questi fondi, cioè, per cui erano fondi destinati allo sviluppo del sud, invece sono stati dati per colmare un buco. Cioè, allora il governo non doveva fare questa cosa, per cui la responsabilità, cioè, il sud se la prende sempre in quel posto dal punto di vista, perché servivano invece a incrementare qualcosa, invece sono stati dati, insomma, a gente poco edificante, diciamo. Parliamo un attimino anche della copertina del tuo disco, Mimmo, perché è davvero particolare. Chi avrà modo anche di andare a curiosare nel tuo sito, che è www.mimmocavallo.it, avrà modo anche di vedere la copertina. Una copertina che vede l'Italia dal nord, ovvero chi si affaccia al di là del Po, forse un po' più sotto, per vedere come è fatto l'Italia. Io direi capovolta, perché per dare proprio un senso, abbiamo ripreso il logo del libro proprio perché dava il senso delle cose viste da un altro punto di vista, insomma, questo era il significato, e sottolineando appunto che c'era questo grande stato, perché era uno stato unito, con una sua lingua, una sua cultura, e a differenza di altre realtà che invece erano frantumate, e che per più di 3 secoli c'era pace, prosperità, e così non è più stato. Da un certo punto in poi non è stato più. Tu dici anche allora che... non c'è una ragione antropologica quando si considerano questi problemi. C'è soltanto una volontà politica che da allora ancora continua. Dici anche che quel regno era tra le due acque, quindi l'acqua, sì, l'acqua salata santa. E l'acqua santa. L'acqua, sì, santa dello Stato Pontificio. C'era il Papa, certo. Esattamente. Si sentivano sicuri perché tra l'altro erano a questi qua erano anche parenti. Ah, cioè, sì, perché con la moglie, insomma, erano... Per cui Vittorio Emanuele chiamava Francesco II cugino, io non ti preoccupare, al limite perderai la Sicilia, ma non ti preoccupare, non invaderemo mai, non pensiamo mai di invadere. In realtà all'inizio forse non c'era questa, all'inizio si voleva Cavour, almeno Cavour non è mai stato sotto Firenze, insomma, è stato una sola volta a Firenze, tra l'altro i piemontesi hanno bombardato Genova, hanno conquistato, poi gli è stata data, perché hanno perso tutte le guerre di indipendenza, ricordiamoci. Napoleone III gli ha dato la Lombardia, come dicevamo prima. Cioè, a un certo punto si sono ritrovati e l'idea era di fare questo grande nord. Ecco i demeriti di Peppino, perché Peppino, coperto dagli inglesi, Mazzini stava in Inghilterra per un motivo, insomma era il collettore probabilmente. Comunque anche Garibaldi stesso aveva dei grandi legami economici con l'Inghilterra, a un certo punto decide di andare in Sardegna, e non è che tu vai in uno stato che ha 200.000 uomini, la flotta più, una delle più grosse in Europa, e passi così con tre barcarole e arrivi in Sicilia. era chiaramente protetto, cioè questi mille, la maggior parte delinquenti, tra l'altro, carcerati, eccetera, sì, che sono andati giù in Sicilia, è ben strano che arrivano in Sicilia, cioè ufficialmente erano volontari loro, sì, in questo caso. Arrivano là scortati dagli inglesi, sì, sono stati scortati da navi inglesi, arrivano in Sicilia e i grandi possedimenti che c'erano in Sicilia erano di inglesi, facevano l'uva, le mandorle, cioè certo, erano inglesi, e la loro plebaglia, soldataglia, erano i picciotti, tanto è vero che quando ero piccolo io la leggevo sui libri di storia questa cosa, che Garibaldi arriva in Sicilia con l'aiuto dei picciotti, cioè, leggi mafia, e leggi mafiosi, e comincia questa, e i picciotti erano questi, i dipendenti di questi inglesi, sono loro a rinvigorire, insomma, le file, e poi con i soldi corrompono i generali, quello che era già lo Stato nello Stato, anche in quel frangente, si può dire. Con i soldi corrompono, volevo giusto chiudere, sì, il concetto, corrompono i generali borbonici, tant'è che proprio a una trasmissione Quark c'è stato un pronipote di questi generali che a un certo punto questo generale va a riscuotere la paga per essersi arreso, è un fatto storico questo, e invece di 30.000 ducati c'è scritto 30 sul suo assegno. E questo, per il grande dolore, la figura che ha fatto, si ammazza. Questo pronipote vuole, dice, non è vero che si è ammazzato per quel motivo, i motivi sono altri. Hanno fatto una trasmissione proprio a Quark, credo, su questo, per cercare di, insomma, di, perciò sono fatti storici noti, che però non vengono alla luce. Insomma. Non vengono mai citati o quasi mai, però adesso c'è un grande mezzo, si chiama internet, e chi è un po' curioso riesce a vedere, a farsi un quadro proprio di quello che era successo in quegli anni e di quello che ancora sta succedendo adesso. Anzi, tra le altre cose volevo ricordarvi che potete tranquillamente entrare in possesso di questo disco di Mimmo Cavallo che si intitola Quando saremo fratelli uniti, tra le altre cose anche venduto ad un prezzo davvero interessante, Mimmo. Beh, lo facciamo per 10 euro, lo facciamo perché vogliamo venderlo nei concerti, perché ormai la musica è tutta live adesso, i dischi non si vendono più, anzi io, l'hanno già fatto forse, non è un'idea, sì, nuova. Però il prossimo CD, dico sempre disco, io album, in realtà. E fai bene, mantieniti col vinile, che potrebbe non si essere sa mai questa idea di metterli tutti in internet e ognuno si scarica. Sì, sì. Se ti piace, dai tu quello che vuoi. Dai quello, sì, che vuoi. Sì, l'hanno già fatto. L'hanno già fatto. Sì, tipo i Radiohead. I Radiohead hanno fatto una cosa simile. Io la trovo una bella idea questa. Se ti piace, tu senti il pezzo, ti piace, dai quello che vuoi. Bene. Certo. Beh, a proposito, parlavamo di classifiche prima con Francesco, che adesso, da questo venerdì, tutte le classifiche nazionali saranno anche le classifiche online, cioè la gente che compra online. E a quanto sembra, Mimmo mi diceva che il disco comprato online da parte di Mimmo viaggia molto bene. Sì, sì, sì, sì, sì, questo devo dire sì. Facciamo un altro pezzo, Mimmo? C'hai mica per caso Garibaldo? No. Non lo so, io avevo qua in scaletta un qualcosa live tuo. Ah, live, sì. In questo caso c'è una richiesta. Una richiesta di... Ninetta. Ninetta, un pezzo lento. È un pezzo assolutamente lento, però gradevolissimo, lo ascoltiamo. Stessa via tenemmo innanza, Ninetta mia, lo stesso vento sta dolce malinconia, che vita da e non avemmo avuto vita nostra, l'avemmo rotolata da sto monte e avemmo fatto pace dopo mille tradimenti. In età dolce mosci da luna per nata notte restammo insieme. In età mia cammina a fianco e fa da malinconia a piaffani, e non avemmo avuto vita nostra, l'avemmo rotolata da sto monte e avemmo fatto pace dopo mille tradimenti. In età canta, canta sulla mente amore conta, restammo insieme e non c'è male. In età canta, canta sulla mente amore conta, restammo insieme e non c'è male. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E praticamente siamo tornati nel 1980, quando c'era ancora quel disco che suonava molto bene. Siamo meridionali e questa era la seconda traccia di quello che era il vinile di quel tempo. Tu pensa, se io fossi uscito, perché c'erano quelli che dicevano usciamo con Ninetta, è bellissima, e c'erano quelli no, usciamo con Siamo Meridionali. Se io fossi uscito con Ninetta, io sarei diventato un cantante, perché poi il primo pezzo ti lascia il marchio, la traccia totale. Sì, sì, sì, sì. Diventa quello. Esatto. Poi. E io magari il secondo disco avrei dovuto fare Anna Anna Mia, nel terzo disco Non Tarebbe a Maria, cioè avrei dovuto prediligere forse. Musica d'atmosfera, più d'atmosfera. E sarei diventato, magari avrei dovuto cambiare anche nome, perché Mimmo Cavallo è un nome così mediterraneo, cattivo. Ma tu sei un rocchettaro, parlavi del progetto che hai in mente del rock. Sì, io chiamarsi Crazy Horse. io vorrei fare, vorrei fare un disco rock di quelli cattivi, che puzza, proprio di stallo. Alla Neil Young, i Crazy Horse, quei duri, duri, in senso positivo. Una cosa che... perché ce l'ho nel sangue, perché quando ero ragazzino quella era la musica che mi piaceva. Però sono anche uno che insomma poi cerca il fatto melodico, mi piacevano per esempio i Jethro Tull, bellissimi, sì. Cioè suoni molto forti, bravi. Però anche un po' di un po' di melodia, di classicismo all'interno, qualcosa ci deve essere di. Però ecco, sono anche uno che appunto puzzo di stalla, come diceva assolutamente serve, perché c'è grinta, chissà, c'è magari, e poi c'è un lato nascosto come tutti quanti, no? Certo. Cioè tutti hanno il lato B, il lato B. Io c'ho anche il lato C, D. Cioè, un altro lato è per esempio la musica zuzzerellona. E io ho tanti di quei pezzi. Adesso mi devo vedere a Roma con Ernesto Bassignano. Tra l'altro, una volta ho fatto sentire un pezzo a Proietti e è impazzito per questa cosa. Sì, voleva farla in teatro ed è un pezzo che ha 8000 parole una dietro l'altra. Ci ho detto, magari poi dopo ci siamo persi e non si è più fatto niente. Però c'ho questo repertorio, diciamo, di cose amene, molto amene. Anche a meno 2, a meno 3, cioè, che vorrei un giorno tirare fuori, e perché no, magari in teatro. Certo, ricordi un momento, l'episodio, l'ultimo concerto, gli ultimi concerti che hai fatto con Mia Martini? Beh, abbiamo fatto 4 concerti, 2 in Sicilia e 2 in Calabria. Al quinto dovevamo andare a Rutino, vicino Salerno, io ho la valigia, era l'una, ho la valigia, la chitarra, sto uscendo di casa, vedo in TV, mi dico, fanno la pubblicità al concerto stasera, era una domenica, mi ricordo, e mi gela il sangue, sento, è morta Mimì. Nello stesso tempo il telefono squilla, prendo il telefono, io guardo la TV e sento dire che erano i ragazzi che suonavano con noi, che mi avvisavano, cioè è stata una cosa, sapete... anche se uno dice vabbè, non abbiamo colpe, però poi le colpe te le autocrei, perché io l'ho capito dopo cosa vuol dire un trasloco. Per esempio, lei era in pieno trasloco in quel momento, e magari siccome dopo mi sono accorto che cos'è un trasloco, avere una casa in disordine, una montagna di roba, non sapere, non avere la forza di magari quel venerdì si andava tutti a sapere che c'era questo trasloco, magari si andava là, si aiutava tutti insieme, gli amici, no? Magari non sarebbe successo. Si superava. Perché sono momenti, è come buttarsi giù da un balcone, cioè uno fa una stupidaggine, è un momento magari che ti crea se superi quel momento magari si innesca un altro meccanismo. E allora un po' di anche se lei forse un po' stava, insomma, un po'... perché anche nelle prove a Ortanova, mi ricordo, quando abbiamo fatto le prove per la tournée, ci sono stati dei momenti in cui l'ho vista un po' faticata, ecco, c'era qualcosa che una volta è stata male, c'era qualcosa di fisico, sì, diciamo. Che però stava... mai nessuno andava a pensare che finiva così. No, perché lei era poi, cioè, se anche avesse avuto, non so, un mal di pancia, qualsiasi cosa, era sempre allegro, cioè, era sempre sorridente, ma sì, vero? Che ci frega, andiamo qua, facciamo lì, cioè, era un personaggio di una positività estrema, cioè una volta un esempio: Mimmo, vieni con me, dove andiamo, dov'è la macchina, qua, sali, vieni, cioè guidavo io, però sì. sali, dove dobbiamo andare, cioè, fra un'ora dobbiamo vederci con i ragazzi per le prove, no andiamo a Napoli, stava morta, no, vicino a Foggia, che andiamo a fare a Napoli, no andiamo a Napoli, andiamo. Io tra l'altro questo fatto di andare a Napoli, essendo molto duo siciliano, quando si era piccoli in paese, piccoli ragazzi diciamo, quando non si sapeva cosa fare il venerdì, il sabato, cioè, andiamo a prenderci un caffè a Napoli, perché per noi Napoli era la nostra capitale, il nostro andare a Napoli voleva dire andare in città, insomma, quasi, anche se avevamo Taranto vicino. Perciò sto fatto di andare a Napoli mi ha ricordato proprio, ma che andiamo a fare a Napoli adesso? Ormai adesso è tutte le città sono più o meno uguali. No, andiamo a Napoli. E andammo a Napoli a incontrarci con Palumella, che erano quelli i sostenitori del Napoli. Poi io c'avevo mio fratello che cominciava a giocare a pallone, per cui avevo amici anche calciatori. e c'erano queste sue pazzie, cioè era, andavamo magari a una festa, magari c'era un concerto di qualcuno, cioè, perciò era molto viva, molto vitale, cioè non, nessuno mai avrebbe pensato a una cosa del genere. Però ecco, mi ricordo che prendeva delle pasticche contro, magari contro, per non ingrassare, così, no, queste ammazzano un elefante, a me non mi fanno niente, cioè, cioè era così viva che non andava dal medico, non si curava tanto, e poi infatti questa cosa qua l'ha presa credo proprio a tradimento. Stiamo parlando con Mimmo Cavallo, abbiamo appena capito la forte emozione che sta vivendo ancora ora mentre racconta del suo... Per me Mimì è stata una persona... Cioè io avevo già il suo mito quando stavo un giorno in studio a registrare Siamo Meridionali, proprio l'album, e c'era questa persona all'angolo, questo cagnolino che è entrata... E io continuavo a cantare, guardavo questo, dice, ma chi è questo? Alla fine ho chiesto a Coggio dopo un po', ma chi è? Mia Martini. Magari te l'avrà presentata come Domenica Bertè all'inizio. No, io stavo cantando, ero di là dal vetro, come te in questo momento, sì, anche se non ci vedono, tu sei dal di là del vetro. Per cui io cantavo e vedevo questo cagnolino. Poi quando ho finito, sono andato di là, ho detto, buonasera. Ma me l'ho salutata così, cioè non... Poi ho detto, chi è? Accoggio, chi è quello? Mia Martini. Ma tu sei Mia Martini? Ma che, guarda, io mi sono inginocchiato naturalmente, e lei poi mi ha fatto tutti i cori lì veniva Antonello Venditti, venivano Fiorella, ma noi, cioè venivano tutti a fare i cori così. Però avere Mimì è stato, poi ragazzi vi assicuro, era uno strumento umano, cioè era uno strumento musicale. C'è un pezzo che si chiama Danza Pagana che io, bellissimo, che è un sette quarti, che l'arrangiatore diceva, oh, ma sei, gli americani vanno in Africa a trovare i tempi dispari, noi ce l'abbiamo qua. Ed è non è solo un tempo, un sette quarti, perché poi diventa anche 6,5, cioè è una tragedia farlo. E io dal vivo, siccome lei voleva che io lo cantassi con lei in quel famoso concerto quando lei ha deciso di andarsene, e io non riuscivo a cantarlo perché con la chitarra riesco a farlo perché ho i miei appoggi, le cose, senza, e siamo portati a batterlo in quattro, è un fatto, noi occidentali abbiamo questo difetto, siamo in quattro, per cui era difficoltoso per me. Ma come, l'hai scritto tu e non riesci a cantarlo? E invece lei lo cantava così, basta fare così, fai così e fai così cosa, cioè non riuscivo a cantarlo e lei lo faceva in maniera così naturale. Ci ascoltiamo un altro pezzo dell'album Quando saremo fratelli uniti. Abbiamo un po' stravolto la scaletta, ma meritava di essere ascoltato. Un pezzo appunto dedicato a Beppino Garibaldi, come l'avevi chiamato prima, sì. E che qua figura come Garibardo. Proprio. E come lo chiamavano a quel tempo. Ok, lo ascoltiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La guerra è la... Quante vite ha vissuto sempre lì combattendo, l'eroe dei due mondi più famoso del mondo, 1,60 m di un dio del nostro suolo natio. Intrepido guerriero, soltanto un pirata, quanti dubbi in tutta la tua vita, ladro negriero e persino assassino di Anita. Gesti il gioco all'infame Cavurro, Pappa e Ciccia in accordo col re, e tuo strumento di due pezzi di e più furbi di te. Ai ai ai ai ai Peppi, perché gli hai detto sì? Hai fatto gioco del nemico e mo chi lo fa chiasci? Garibardo, e t'ha giocato il savoiardo, per due lenticchie un po' di lardo, e per noi furono guai. Ai bandito, eroe della nazione, bandito, ti ha messo prono e ha obbedito, è il glorioso generale che nessuno può fermare. Ha conquistato ormai tutto il paese, ma le avresti certo prese senza inciuci, tradimenti e loro inglese. E quando tutto fu pronto, tutto già apparecchiato ed il filo infilato al telaio, e Peppino Burattino nelle mani del burattinaio. Ai ai ai ai ai ai ai, che cosa è il mito mai, che ancora brucia la ferita, sai, e non passa mai. Garibaldo e t'ha giocato il savoiardo all'amo di quel manigoldo, e per noi furono guai. Ai bandido, eroi della nazione, bandito, han fatto quello che han voluto, t'hanno fregato, Peppino. Radio Sera. Blu Radio Sera. E si gridava la guerra es la verdadera vida del hombre. Eccolo qua, era, Garibaldo. Perché lui era un hombre de guerra. Sì, sì, sì, aveva proprio aveva anche sposato una signora che non era tranquillissima, no? Mi sembra di ricordare. Ma che era lui che non era tranquillissimo. Perché noi diciamo sempre che i mille. Poi ragazzi, si faceva aiutare io in qualsiasi casa, qualsiasi via, qualsiasi topaia, ostello, c'è sempre una targa, una bella targhetta: qui riposarono le membra stanche, sempre stanche. Dopo però. Siccome la stessa cosa succede in Perù, in Bolivia, nelle Americhe, io è stato anche in Cina, dicono, cioè, e in tutti questi posti c'è questa targa, facendo il calcolo delle volte che questo personaggio ha riposato le membra, e non torna di conto, perché questo deve aver dormito 200 anni. se hai 400 anni, pare che, cioè, ci sono 200 anni di riposo di membra, calcolando 4 ore a riposo. Cioè, è troppo, c'è qualcosa che non torna. Ci sarà qualcuno che avrà anche voglia di recuperare tutte queste foto prese in giro nei vari posti del mondo dove è stato Garibaldi, rendendole libri per far capire quanti anni realmente è vissuto Garibaldi. Allora, abbiamo ascoltato dei pezzi di qualche tempo fa di Mimmo Cavallo, abbiamo ascoltato anche dei pezzi tratti dal suo ultimo lavoro che si intitola Quando saremo fratelli uniti, e c'è una citazione sotto del tuo CD, Mimmo, dice: bisogna raccontare sempre, anche quando non ti crederanno, e anche noi questa sera ci abbiamo provato. Eh sì, perché voglio dire, quando tu dici che probabilmente Garibaldi ha messo fine alla vita di Anita, cioè l'assassino, perché nel disco lo dico, io nel pezzo lo dico, probabile assassino di Anita, è una cosa forte, però bisogna dirla, perché c'è un referto, il reperto, diciamo, del che è un referto medico, e dice quello: Anita è morta per strangolamento. Cristianamente avrà messo fine alla sua sofferenza, però Anita è stata strangolata ed è stata con un po' di sabbia, un po' di pietra, insomma, è stata tumulata infrettolosamente, l'hanno trovata il giorno dopo con che un cane aveva, insomma, cioè, è una storia che secondo me va raccontata, perché è inutile avere questo mito falso, però conviene a qualcuno. E quindi abbiamo raccontato anche un po' di storia, una storia che molti non conoscevano e che molti, se vorranno approfondire con questo argomento, potranno sia andare a vedere lo spettacolo Terroni di Roberto D'Alessandro con Mimmo Cavallo, e in questo caso il 26 ottobre 2011 al Teatro Martinit di Milano ci sarà appunto questo spettacolo. Allora, Mimmo Cavallo, grazie per essere stato... grazie a voi della pazienza. E... con noi ci hai emozionato davvero tanto, perché il saperti ancora in circolazione è stata una sorpresa davvero graditissima, e in questa serata ci hai fatto ripercorrere quelli che sono stati i tuoi 30 anni e passa di grande musica. Sì, quando il nostro direttore artistico mi ha detto: abbiamo la possibilità, direttore artistico qui presidente Alberto, abbiamo la possibilità di avere forse Mimmo Cavallo, magari, abbiamo detto subito magari, quindi siamo stati molto onorati di averti stasera. Benissimo. Io vado in giro come una molecola di protone sfuggito a quell'esperimento che hanno fatto lì, insomma, una scheggia, però cioè, giriamo, cerchiamo di farci sentire. Siamo stati per esempio a Marsala, nella capitale di Garibaldi, sì, no? Sì. E la gente, mi ricordo, in sala diceva, sentendo queste cose su Garibaldi, insomma, diceva: vero è fantastico, le signore meravigliate, perché lì, sai, Garibaldi è ancora un mito, cioè, poco tutti chiamano i figli Peppino Garibaldi, Gari. E quanti figli avrà sparsi? Vabbè, anche questo è un altro argomento. Vabbè, allora grazie ancora Mimmo, grazie di essere stato con noi con la tua musica, con la tua chitarra, e buon rientro, e grazie ancora. E noi salutiamo il nostro pubblico, però tu rimani ancora per un ultimo pezzo, vero? Sì. Cosa ci fai sentire, Mimmo? Volete sentire Un mamma, per esempio, che sì, è un grande pezzo, oppure se vogliamo un sette quarti che dicevamo prima. Sì, quello di prima, forse ci intrippa di più. Sì, vabbè. Allora salutiamo da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Solito grande caloroso ciao, buona serata a tutti e buona continuazione di musica ascoltando Mimmo Cavallo. Danza pagana. Grazie Mimmo. L'aurora, tamburi in lontananza, e si fa festa con la danza, e c'è un ritmo che ci prende e ci fa cantare, e africana e africana viene dal mare, e meridiana, meridiana, la musica è vicina, la radio va, la radio suona, africana. D'argilla, com'è forte questa danza, come brucia questo sole sulla pelle, luna mia, luna pagana, che ti fai danzare, e africana, e africana, viene dal mare, e africana, suona, suona, è dal mare che nasce l'anima pagana, la musica che ci chiama, e africana. Quando è notte, la musica si fa più forte. Quando è notte, oh madre mia, madre d'argilla, stanotte quante stelle, e il vento soffia sulla pelle, tiri, tiri, tiri, tiri.